box spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, like you, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. I've been too nice. You can't afford to be sore. I think you've been smoking way too much more. Cause I've been too nice. And you're talking way too much. Before you get hit with that, suggest you just flush. Prova microfoni, siete svegli? Sì, prova. Ci siete? You don't even know how to provide for your shit. Bro, cast guys, I spend five on a chick. All my mates said that I had you with. Do I intimidate you? Cause I am the shit. Yeah, I am the lick. And you should pipe down. Gonna make that real young and leave right now. Cause I could turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite down. Earrings you wear, the ups and downs, ins and outs of your hair. I don't really care with the girl who works here, the what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're like you, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each model, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I've been too nice. You can't afford to be stored. I think you've been smoking way too much more. Cause I've been too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you flush. Dice Giffo, ma c'è un sacco di gente stasera. Dipende da che livello è abituato, Giffo. Abituato a due persone, siamo in tre. Cioè, se abituato a tre persone, siamo in quattro. È abituato a nessuno, presumo. A me piace solo Fedra, scrive. Prova microfono. Abbiamo degli ospiti spaventosi stasera. Ah ecco, infatti l'ho messo subito il jingle, perché vi volevo dire che stasera bisogna fare dei jingle nuovi, perché ormai qua siamo... Come state? No, innanzitutto dobbiamo dare il benvenuto a Radio Città Fujiko al rientro di Riccardo Lolli. Ciao, con applauso. Detto anche il miracolato di Lagarde. Di Codogno, il miracolato di Codogno. Il miracolato di Codogno. Come stai? Benissimo. Benissimo no, però insomma sempre meglio che morto. Beh, l'ultima volta che t'ho visto eri un po' più grigio, per cui... Sì, quando mi hai visto ero in mutande, non camminavo, ero collegato a 12 sensori per l'elettrocardiogramma. Io ne ho visti solo 11, non so dove fosse il 12esimo. Comunque... Scherzo. Bene, no, mi fa piacere che tu stia benissimo e che sia venuto qua con i nostri amici Enrico Farnedi e Susi Musogrigio, come ti devo chiamare? Come preferisco. Alice Mucichini. Sì, dai. Aspetta che ho questa musicaccia di sottofondo. No, scherzo, questi che ti assorba. Respira. No, è meglio di no, perché chissà chi è stato. Chissà cosa succede. Esatto. Infatti. E così siamo. No, fermo. in barba ai divieti siamo in, esatto, in barba a tutti i divieti possibili immaginabili. Abbiamo 18 persone dentro allo studio di Coxo Spaziale. Feda invece è impaurita, è rimasta in Veneto brandendo un metro per tenere lontana la gente. Esattamente, un metro estensivo. Anzi, la salutiamo caramente. Ciao, Fedra. Salutiamo anche il nostro caro Giffo che ci sta ascoltando e scrive così: io sono sempre da solo. Molto bene. Oggi, prima di tutto, devo farvi sentire una canzone che non conoscete. Malgrado voi siate prontissimi, io vi devo far sentire una canzone di... Oddio, non... non sai neanche che cosa deve farci sentire. No, sai, il bello... il bello degli iPad è che appena vai in una finestra loro si spengono e si riaccendono, non so bene perché. Ah, okay, comunque, no. Stiamo parlando di una giovanissima cantautrice chiamata EJ Amaci. Spero di aver pronunciato il suo nome bene. Che da dove viene? Viene da, stavo per dire Bristol, ma non è vero, comunque dagli UK, i outskirts of London, e presumo. E vi faccio sentire un pezzo che è uscito da pochissimo, chiamato Loved and Lost. You and me, we had a special bond back then. I still remember chasing the sun, not wanting the days to end. Whether I call it love or call you a friend, all of the good things must come to an end. Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Ah, pensavo che dicesse Lolli che scorreggia, invece no, siamo stasera un gran puntatone musicale. Infatti, secondo me, io ho bisogno di un jingle che dica tipo ospiti musicali o qualcosa del genere. Chiedi e ti sarà dato. Ecco, me lo fai tu al volo? Vediamo. E che cosa ci cantate stasera? È Lolli, l'MC. ma io serata. Potremmo iniziare con un brano, siccome ho sbagliato l'angolo della menzione. Quello forse c'è anche dopo, però forse anche no, perché in realtà sembra che non succeda niente questa settimana. Abbiamo delle menzioni a lungo termine, qualcosa abbiamo. Ah, ecco, molto bene. Non è detto comunque che vadano a buon fine. Sì, ecco. Sì, io il 12 di settembre dovrei suonare un matrimonio. Ah, fantastico. Menzioniamo quello. Bene, io dovrei andare a incontrare la cocotta verso fine giugno. Quindi dai. Poi possiamo menzionare anche quello. Sì. No, dicevamo, scusate, no, vi vedo armati di due ukuleli e quello invece come si chiama quello strumento? Questa qui è una melodica. Ah, una melodica. Ma è tipo una peretta. Ma la fanno ancora? Non lo so, questa qui è roba degli anni 70, era la melodica che usava il maestro del coro di Scarica l'Asino per dare l'intonazione ai coristi. Con un la. Ecco, sì, un la meraviglioso hai fatto, grazie, avevo bisogno di questo. E dunque vi siete messi d'accordo per suonarci qualcosa? Per suonare ad esempio un brano di Bugo, che ultimamente va molto per la maggiora. Esatto. Però un brano del suo primo album, il suo primo album del 2000, se non vado errato, si chiamava La Prima Gratta. La Prima Gratta. La Prima Gratta. Ok. Prodotto per la Snowdonia, casa discografica dei Mesi, con i quali sto collaborando da molti mesi, con i Mesi. Ah, con i Mesi. Insomma, questo pezzo di Bugo che è particolare, diciamo che esatto, praticamente come al solito è tutto magna magna, cioè. Ma dimmi un po' questi Mesi quando uscirà questo... si parla della seconda metà perché poi non è più un disco, cioè, è un doppio album con una settantina di brani, un doppio CD. Alcuni durano 10 secondi, però, però andava mixati anche quelli. Ah, certo, ma ti fai pagare a album a secondo? Vediamo la SIAE cosa dice. La SIAE sta bloccando tutto, anche i dischi in uscita in questo momento. Ah sì, addirittura, molto bene, no, ma io sono d'accordo, secondo me bisognerebbe bloccare tutto per sempre. E non se ne parla più. Statevi a casa e zitti. Esatto, statevi a casa. Allora Susi, inizi tu. Inizi tu, aspetta che abbasso la... Sì, che onore e che onere. Ok, siamo belli. Mm-hmm. Cellulare scarico, per la strada il panico, gente nuda guarda su, se il cielo è sempre in alto, il cellulare scarico. Divento acido, la mia birra non c'è più, a Giuseppe manca un dito, il cellulare è scarico. Birra non c'è più, a Giuseppe manca un dito, il cellulare è scarico. Il cellulare è scarico. Il cellulare è scarico. Vi applaudo da soli, con una mano sola. Grazie. bravi, no, perché poi ho fatto un errore, ho partito una diretta di Instagram e adesso non so, cioè, come fermarlo. No, più che altro sono arrivati tutti in questo momento, mi dispiaceva fermarlo. E vabbè, adesso lo fermo lo stesso, scusate, ma eccoci. Sì, end video. Vabbè, è stato bello. Ma questa canzone, raccontami qualcosa di questa canzone. Ma io in verità ero venuto a conoscenza di Bugo dal 2002, quando passò la Universal con l'album Dallo Fai al C6. Questo album qui non lo conoscevo, era due album prima, e ancora più lo-fi. Era molto lo-fi, sì, molto sghembo, come più o meno tutta la sua produzione fino a una certa data, diciamo. Ma come ha fatto a arrivare a Sanremo Bugo? Come ha fatto, perché era stato preso a mano dalla Universal nel 2002, probabilmente nasce da lì la cosa. Adesso io non so che evoluzione abbia avuto, non l'ho seguito, diciamo, però. Ma da che mi ricordi era partito come il back delle risaie, una grande promessa, poi Bugo. È stato promettente. Ma ricordo, al liceo ero quando era partito Bugo, che sembrava dovesse spaccare l'universo. Sì. Ma in quell'epoca effettivamente era originale. Era sentimento westernato. Sentimento westernato. Hai capito? Dove eri te, Pasquini? Quando tu eri al liceo, io probabilmente, cosa, non lo so, ho cominciato a insegnare, era tipo. Ma insegnavi al liceo? No, non saprei di che anni stiamo parlando, forse 2000, non c'era. 2001-2002. Ok, no, allora c'ero, dai, ero un po' distratto, ma c'ero. Ok, te la passiamo per buona. Sì, dai, va bene. Farnidi lo vedo molto, molto impegnato. Stavo cercando di fare una diretta Facebook, ma non sono capace. Ah, ok. Bugo mi piaceva un video casalingo. Ah sì, si chiamava la canzone, si chiamava Casalingo, tornando sul discorso. Cioè, mi sento ignorantissimo, io giuro, non ho mai visto Bugo. Era ai tempi di Andrea Pezzi. Sei entrato nella categoria di quelle persone, ma compreso, a me, Lolli compreso, che quando vedi qualcuno in televisione dici, ma chi è quello lì, che io non lo conosco? No, ma io l'ho sempre fatto, fra l'altro... Okay. Sì, devo dire che poi non essendoci stato negli anni 90, soprattutto il decennio del 2000, proprio c'era gente che non sapevo nemmeno chi fosse, e soprattutto gente che non sapevo che fosse morta, anche quello è abbastanza interessante, perché poi appunto 30 anni dopo scopri che qualcuno è morto. Ma come è morto? Esatto. E così. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto. C'è una vedova da andare a visitare. Ah, ecco, no, è appunto, perché fra l'altro nell'angolo della menzione che non faremo, tu Enrico dovevi, cioè forse suonerà, chi lo sa, sì, domenica prossima. Diciamo che c'era... in quanto lavoratori dello spettacolo, noi musicisti siamo un po'... Sulla schiena dell'anguilla, come si dice in Romagna, sulla schiena del burattello, che è una situazione abbastanza, diciamo, scivolosa e precaria, e oggi ho parlato con i responsabili della cantina Bentivoglio, avrei dovuto portare all'interno appunto della rassegna di concerti fatti in collaborazione con la fondazione di Lucio Dalla. Avrei dovuto portare il mio repertorio di Lucio Dalla in cantina, c'ero già stato due o tre volte a fare questa cosa, però appunto oggi ho parlato con Alberto, che si occupa della programmazione artistica, e dice che ancora tutto un po' si naviga a vista, e le disposizioni sono abbastanza chiare ma al tempo stesso un po' oscure. E comunque la SIAE ha bloccato permessi da, cioè i permessi che ha dato valgono fino al 7, dall'8 in poi chi lo sa, per cui io sono... No, anche perché poi, come tutti sappiamo, la SIAE può tutto. Per cui... Esatto, no, però mi dispiace perché io ho rifiutato, essendo l'8 marzo, avevo rifiutato un incarico molto lucroso, la spogliarellista, per andare a suonare Lucio Dalla a Bologna. Ho capito. Ti hanno detto, mal che vada, la suoni dalla tua schiena del burattello. On the back of the puppet. È abbastanza semplice, no? Però... lui burattello l'ha preso come burattino. Ah, ecco. No, infatti dicevo, forse, come fa a sapere burattello? Forse burattello in italiano è anche un tipo di burattino. E burattel in francese. In francese vuol dire anguilla. In francese di Cesena, anguilla. Ho capito. Dunque, cosa c'è? Ci canti una canzone di Dalla al volo così? Prima, dai. Canzone famosa, una canzone corta, una canzone lunga? Una canzone che può essere fino a 7 minuti, perché poi mettiamo le pubblicità della mezza. No, dai, solo, facciamola più breve. Dai, via, seguitemi. Seguitelo. Pronti. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome, neppure il paese, mi aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò a Ninna Nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava alla Madonna col bambino da fasciare. E forse fu per gioco, ma forse per amore, che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita ricordo il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso, mentre bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino. Hai perso la cuffia, ma sei riuscito a fare gli ultimi due accordi, esatto, veramente con una mano sola. Spaventoso sei. L'avevo detto che siete degli ospiti spaventosi. Comunque è durato troppo poco, abbiamo ancora 4 minuti. Per cui, poi dipende dall'orologio che stiamo. Come ammazziamo? Ma non hai nulla da raccontare in questa trasmissione. Cioè proprio... ma oggi in realtà non ho preparato niente. Cioè, potrei. No, in realtà avrei qualcosa da raccontare. È morto Uley oggi. Ah, sì. Cioè, che non so che se lo conoscevate personalmente, ma io no, però era il performer che ha reso, insieme a Marina Abramovic, hanno fatto negli anni 70 qua a Bologna, hanno fatto questa performance incredibile che si chiamava Imponderabilia, dove si erano messi all'ingresso della Galleria d'Arte Moderna nudi, e chiunque voleva entrare doveva strusciare, adesso la musica non è proprio adatta, però però doveva appunto passare attraverso i loro due corpi nudi, per cui io ho notato dalle foto di, no, anche c'è anche un video al Mambo, c'è anche questo video, ho notato che la tendenza era quella che gli uomini si affacciavano dalla parte della donna e le donne tendenzialmente si affacciavano dalla parte di Uley, che ci ha abbandonato oggi, però così. Sì, adesso aspetti una nostra reazione. No, in realtà volevo un po' di silenzio coxico, ma va bene così. No, avevamo notato la notizia. Sì, anche perché oggi, siccome non è successo quasi nient'altro, oggi su Facebook si parlava. Anche perché tanto succede solo il coronavirus. Quindi no, infatti, si parlava di coronavirus. e di Uley oggi, così. E invece a Lagaro di che cosa si parla in questi giorni? Del culo. Il culo, come sappiamo, è uno dei cinque elementi: acqua, aria, fuoco, terra, culo. Con il culo non ci scherza, è un argomento da non prendere sotto gamba, non si può parlare del culo senza cognizione di causa. Prima di parlare del culo, sciacquarsi la bocca e contare fino a 10. Da secoli si tenta di cogliere l'ineffabile essenza del culo, unitamente al nocciolo della banana, è uno degli argomenti più controversi della storia. Il culo era già descritto nei Placiti Cassinesi. Impossibile scindere il culo in più di due chiappe senza perderne l'integrità. Sineddoche è sinonimo di grande fortuna, ma anche e soprattutto di ilare serenità, esempio, mi ride anche il culo. Mancando il culo diventa problematico mangiare seduti alle apericene. In tempi recenti ogni tentativo di guidare senza culo sulla variante di Valico non è andato a buon fine. Il culo è necessario e sufficiente. Il culo basta a se stesso. Un culo è un culo è un culo. Il culo prende coscienza di sé e si mette in fila al CUP. Il culo, quando non va alla DSL, resetta il router. Il culo al cinema si addormenta solo guardando i film belli perché lo rilassano. Il conto corrente del culo è intestato come privato, non come ditta. Il culo può essere contenuto in un hard disk da 3 terabyte. Il culo può essere spedito in tutto il mondo, eccetto l'Azerbaigian, secondo le tariffe di Poste Italiane. Il culo applaude agli atterraggi. Quando il culo viene applaudito si schermisce. Il culo suda a temperature superiori ai 40 gradi centigradi. Se il culo viene preso in ostaggio si effettuano concitate trattative. Il culo su Amazon costa meno. Il culo è una delle 4 virtù teologali. Il culo è un angolo giro. Il culo declina ogni responsabilità. Quando il culo cammina zigzag, chiamare subito il medico. Il culo, quando muore, vive nel ricordo di chi lo ha conosciuto. Salutava sempre. Vaga scaletta. Amore, tecnologie.com. Vieni qui che ti fa. Coxo spaziale. Ed eccoci tornati a Coxo spaziale, non so se avevate capito, e l'angolo della menzione. La faccio lo stesso, non mi importa niente. Anche se magari tutte queste cose non succederanno, facciamo finta che succederanno. Dunque, innanzitutto dal 6 marzo al 21 giugno Palazzo Pallavicini ospita un'importante retrospettiva dedicata al grande fotografo parigino Robert Doisneau. Si pronuncia così? Come è scritto? Doisneau. Credo anch'io. E dunque, non ci vedo più niente, celebre per il suo approccio poetico alla street photography, autore di Le Basier dell'Hôtel de Ville, ovvero quei due che si baciano fuori da un bar che conosciamo tutti, è una delle immagini più famose della storia della fotografia e del secondo dopoguerra, e questo è a Palazzo Pallavicini, che è in via San Felice 24 a Bologna. Se andate su www.palazzopallavicini.com scoprirete anche se la mostra, cioè adesso la mostra si farà comunque, giusto che scoprirete che se potete andarci venerdì, sabato e domenica, oppure se dovete aspettare martedì della settimana prossima. Tanto è fino a giugno. Tanto è fino a giugno, allora, per dai. Cui però insomma pure c'è cioè, entrare uno alla volta esatto, e con un metodo di legno attaccato alla testa, che tra l'altro mi ricorda una puntata dei Simpson in cui Lisa aveva fatto un'ingiunzione contro Bart perché era così fastidioso che aveva un bastone lunghissimo per tenerlo a distanza, lo punzecchiava in continuazione, e siamo proprio in quella situazione lì perché i Simpson prevedono sempre tutto. E invece domenica 8 marzo alle ore 21:30, appunto, c'è Farniti, probabilmente non canterà Lucio. Probabilmente non c'è Farniti. E questo era, leggo anche tutto il resto, dai primi successi, passando per la trilogia realizzata con il poeta Roberto Roversi e i trionfi di fine anni 70, fino all'esperimentazione elettropop degli anni 80. Da 4 marzo 1943 fino a Viaggi Organizzati. Sul palco non ci saranno Enrico Farnedi, voce ukulele, Simone Migani, piano elettrico e sintetizzatore, e Mauro Gazzoni alla batteria. Giusto? Non ci, cioè, probabilmente. Non ci sarà. Sì, sì. Probabilmente no, però ci facciamo sarà, finta è una di performance sì. In cui loro, il pubblico si presenta e guardano un palco vuoto e si immaginano, tra l'altro ecco, da libero sfogo alla fantasia questa cosa qui. Infatti. Potrebbero devo... immaginarsi che suoniamo male, che suoniamo bene. Sarebbe bello andare al cinema e non c'è il film. Esatto. Tipo. Oppure live te dalla tua cantina. Esatto, ma infatti ci stiamo attrezzando per fare dei live in streaming. Lo conosci Stage It? Me ne parlavo oggi. No, perché esiste, cioè in America sì, sono sì. Due o tre anni che esiste questo, cioè no, anche forse anche sì, ma io arrivo sempre dopo cinque o sette che gli artisti americani fanno questi live in streaming, tu paghi poco, cioè un po' meno di un concerto normale, tipo adesso non mi ricordo, tipo $10-12 e ascolti. Vabbè, artisti famosi quindi. Sì, abbastanza, cioè non lo so, adesso poi magari più sei famoso più costi, non lo so, Lolly tu quanto costeresti su Stage It? Poco. Dagli 80 ai 120, non so, dipende... dalla disponibilità, non ok, so. 80 euro se, no, però sarebbe bello, secondo me si potrebbe pensare di fare uno stage dove tu hai il numero di visualizzazioni e sei l'unico, allora sì, no, sei, cioè, in no. Che senso? No, nel senso che cioè io pago €120 però voglio essere l'unico a vedere vabbè, Lolly certo, dal vivo sì, sì. No, oppure che ne so, tipo gli home concert. Esatto, sì, esatto, gli home concert. E, avrei una menzione. Aspetta, perché c'è un'altra non menzione che però oggi su Facebook non la trovavo più, però la sua memoria, che è la Caterina Cavina, il lunedì successivo, per cui se domenica è l'8 marzo, il 9, stiamo parlando del 9, e adesso fra l'altro nel mio calendario mi ero anche segnato l'ora alle 6 alla Coppa Ambasciatori presenta il suo nuovo libro che però ahimè non mi ricordo come si chiama, tu te lo ricordi? No, non lo sappiamo. Comunque dunque alle 6 alla Coppa Ambasciatori il nuovo libro della Caterina Cavina, però non sappiamo se ci sarà o se non ci sarà, comunque noi vediamo noi vediamo, non mi ricordo, è che ho tutti i cellulari impegnati per cui non posso andare a cercare. Comunque ci vediamo lì, io alle 6 sarò alla Coppa Ambasciatori, poi se non c'è la Cavina ci facciamo una pericena, facciamo una pera. Ci facciamo una pera. E così e tocca a te con la tua menzione. Sì, dunque il giovedì 12 marzo al Gallery 16 in via Nazario Sauro ci sarà la presentazione di un CD compilation che si chiama 391. Aspetta che intanto me lo scrivo sul mio calendario. Così. Bravo. Ci sarà, diciamo, è prevista questa presentazione di questa compilation 391 Emilia Romagna, che in un doppio CD in cui ci sono brani inediti delle band emiliano-romagnole degli anni 80, tra cui i Central Unit. Quindi io sarò con i Central Unit a eseguire qualche brano nostro recente, poi ci saranno anche altri gruppi presenti nella compilation, adesso non ricordo quali, praticamente il locale si riempirà solo con i musicisti e arriveranno i vigili urbani a far sloggiare tutti per questioni di sicurezza. Noi siamo in sei solo noi se partite di peti tutti e sei dopo sì, è un disastro. No, fra l'altro me l'ero segnato, però essendo appunto giovedì della settimana prossima l'avrei menzionato lunedì della settimana prossima, se non fosse che io non ci sono, perché sono a vedere si chiama Le radici dei fiori. Brava, vedi, tu sì che ti ricordi i nomi. Beh. E dunque il giovedì 12 tutti al Gallery 16 Gallery 16, giusto? In via Nazario Sauro, forse al numero 16, ma non credo. Al numero 16A. Ah, sì. 16A, vero? Poi se vogliamo fare 12x16 fa 192, 192 li metto il negativo, più 391 che è il titolo del CD, viene 199, 9, 9, 18, 1, 19, non saprei cosa farci, però la numerologia ci dice questo, ecco. Ah, può darsi che Alessandro Franceschini sappia un sacco di cose da questa cosa. Sei pronto per farmi una canzone, ti vedo. No, io aspettavo Lolly. Aspettavi Lolly, ok. Stavo cercando l'ukulele che ce l'ho sopra. Ah, ecco, vedi, fantastico. Hai perso l'ukulele? Sì, ce l'ho sopra. Ah, ok, eccoti qua. Ma io mi chiedevo, ma perché tu hai un guanto bianco tipo Michael Jackson? Ho un guanto bianco alla Michael Jackson perché ho fatto delle bellissime manicure che non potete vedere dalla radio. e vorrei evitare che si rovinassero con lo strumming del mio strumento, nonché rovinare a sua volta le corde dello strumento. Quindi hai utilizzerò capito. Questo arguto, questo metodo tecnico, arguto sortilegio, tecnico, ma sì, sì. Ho capito. Ma è invece un plettro, no? No, l'ukulele non si suona col plettro. Ah sì? Ah, questo è un sacrilegio. È un sacrilegio. Non che non lo saprei proprio suonare col plettro perché non ho imparato. Non so tenere un plettro tra le mani. Confermi, l'ukulele non allora, si suona col plettro. Sì, cioè tradizionalmente non si suona col plettro e c'è gente che si offende se vede qualcuno con un plettro davanti a un ukulele. Ok. E in realtà, cioè, ognuno poi è libero di fare un po' quel cazzo. Sì, io, certo. Io, per esempio, attacco all'ukulele un sacco di pedalini elettronici, che è un'altra cosa che non si dovrebbe fare. Ok. E poi per chi, cioè, l'ukulele vero andrebbe suonato col suono dei polpastrelli. Addirittura c'è chi dice che neanche le unghie vanno avvicinate alle corde. Bisogna tenersi le unghie corte. Poi per chi quello si possono suonare ukulele e chitarra nello diciamo stesso che giorno. L'ukulele, diciamo. Meglio lasciarlo. Cioè, una settimana l'ukulele e una settimana la chitarra. Ho capito. Oppure se uno vuole ottenere, non riesce a rinunciare al plettro e vuole ottenere il classico suono da ukulele anche col plettro, ci sono dei plettri appositi, morbidi, in feltro o in altri materiali. Comunque sì, diciamo. Ma io già che sei lì che parli ho un'altra domanda. Tu che cosa ci facevi nella pubblicità della team di Sanremo? No, nella pubblicità della Nutella, non della team. Ah, nella Nutella, scusa. Ah no, mi ero confuso con quello che ballava che è venuto la settimana scorsa. Infatti, che cosa hai fatto a Sanremo? No, io a Sanremo ho partecipato. Io mi aspetto tutti gli anni che vi chiamino sì, Lolli, sì. Farnedi e anche Guido Foddis, tutti a Sanremo. Ho partecipato insieme a Rocky Mille, che è questo grosso insieme di musicisti che quando ci sono tutti sono più di mille, sono Rocky più di mille. Abbiamo fatto diversi concerti in giro per l'Europa. Tutti nudi, possibilmente, sì, anche perché sono sempre concerti estivi all'aperto e il caldo. No, tutti nudi no, perché le prove di giorno ustionerebbero molte persone. La sera sì, qualcuno è tutto nudo. E niente, siamo stati invitati sul palco esterno di Sanremo per suonare La vita le bella di Cocchi e Renato. Eravamo in 100, poco più di 100. Per cui molto meno di mille. Molti meno di mille, esatto. Non vorrei mettere ok, no, sì, è perché quella questione però. Logistica più che altro, però sì, adesso faccio parte anche di questa realtà. Dice Giffo: quante minchiate dice la muso grigio? È innamorato, Chi disprezza compra sempre. Infatti, sì. Spaventoso. E dopo cosa hai vinto a Sanremo? Ti hanno dato almeno un fiore? No, a Sanremo ho vinto. Allora, sono stato ripreso il venerdì. No, il sabato mattina, perché stavamo suonando per strada davanti all'Ariston e il TG1... Cioè sei stato ripreso da un carabiniere. Da un carabiniere, sì. Okay. Prima da un carabiniere, da una guardia giurata e anche da un rappresentante dell'EMPA. Ok. Per motivi che non ho capito. Però la cosa bella è che anche il TG1 era lì e io avevo i baffi in quel momento lì, come Iannacci a fine anni... i primi anni 60 avevo i baffi Iannacci. E questa cosa è piaciuta, allora in tutti i TG1 dal sabato prima del festival alla domenica dopo il festival sono apparso per qualche secondo con la tromba e i baffi con la tromba e i baffi. Tutti i giorni qualcuno mi chiedeva ma sei a Sanremo? E tutti i giorni dicevi certo, sono qua, ho le chiavi della città. Infatti ma è fantastica sta cosa qua. Ma e dunque quando tu metti insieme il tuo curriculum metti ogni uscita per ogni giorno, no? Esatto, scrivi Rai 1, artista Rai tra parentesi baffi, tromba. Coi baffi e tromba. Ok, è fantastica sta storia qua. Come l'orchestra. Ma eravate in 100 a suonare tutti e 100 la tromba? No, eravamo in 3. Ah, ok. 3 trombe, 2 tromboni, 2 sassofoni, poi c'erano decine di chitarristi, di cantanti, 12-15 bassisti, tanti batteristi. Pensavo che quando facevate Rock in 100 fossero sempre tutti lo stesso strumento, cioè che si incontrassero o tutti i batteristi o tutti ci cerca sempre di ricreare una sorta di gruppo musicale, ecco, con vari strumenti. È bella sta comunque cosa, Rock in 1000 un po' da disagiati, ma è Rock in 1000 è un evento che sì, che può sembrare un evento da disagiati e comunque essendoci più di 1000 persone del disagio può esserci. C'è di tutto, però è un'esperienza che invito tutti a fare, cioè, anche soltanto a vedere le prove, scendere in campo durante le prove quando ci sono 300 batterie che suonano tutti insieme, no, infatti, è una cosa che non ci si immagina proprio. È la potenza della quantità. Io sono un promotore della quantità. La cosa interessante è anche la negazione dell'individualismo tipico del rock, e lì diventa viene annullato in una messe di suoni tutti insieme che si sbriciolano l'uno contro l'altro, e il risultato è molto più musicale di quello che uno si potrebbe aspettare immaginandoselo soltanto, no? In realtà i musicisti riescono a suonare a tempo e a creare le canzoni, c'è sempre questo effetto da coro da stadio, ma è bello che sia così. È divertente, è una cosa interessante. E poi ma come si fa a partecipare a queste cose? Si va sul sito di Rock in 1000 e ci si propone con un video. Ah, ok, bisogna. Se vuoi suonare, se vuoi andare a fare il pubblico, si compra il biglietto a seconda. Ah, beh, certo. C'è già a Parigi a luglio, se vuoi andare il 4 di luglio allo stadio, alle Stade de France. A Saint Bellalé, come direbbe. Non ho capito perché si è spenta la musica di sottofondo, per cui la dovete fare voi. Tocca Lolli. Tocca Lolli. Perché io ho parlato non a caso dei baffi di Ignazio. No, infatti. Perché parlavamo del. Ok, abbiamo un là. Un mi, scusate. Sì, Annacci, musica, tutto quanto, via. Vai. Dai tempo. One, two, three. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, ta, ta, ta, ta, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, capirai che non potrò più camminare neanche in mezzo alla strada. Quando capirai che non potrò neanche aggrapparmi a quel balcone che c'è in mezzo alla strada. Quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe arrivar mai, e tu eri là che stavi al mare, che bel fresco devi stare, che ti frega di uno che fa fatica a camminare. Allora quando mi dirai che è proprio roba da imbecilli vomitare proprio in mezzo alla strada, e quando ti dirò che è per fatica di capirti che mi viene da vomitare qui giù in strada, quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe più arrivare, e tu eri là che stavi al mare, che bel fresco devi stare, che ti frega di uno che fa fatica a vomitare. Allora portami in fondo alla piazza, là dove canta il jukebox. Senti se c'è ancora quello che canta Only You, Only You. Portami in fondo alla piazza, fammi cantare con lui, accertarsi bene che quello che canta sia proprio Only You, Only You. E quando mi dirai che anticamente masturbarsi era peccato veniale, e quando capirai che umanamente è l'insalata che mancava di sale, e quando arriverà la sera e capirai che la mattina dopo non poteva più arrivare, tu che cazzo sei venuto? Sei venuto via dal mare, che bel fresco eri là stare, che ti frega di uno che si voleva rimbambire. Allora vai proprio in fondo alla piazza, senti che canta Only You, senti se c'è ancora quello che canta Only You, Only You. Vai proprio in fondo alla piazza, va, fatti cantare da lui, prima accertarsi bene che quello che canta sia proprio Only You, Only You. Ta ta ta. tararara, tararara, tararara. Bello, bravi. Siete carichi? Siete caldi? Sì, certo. Stasera è molto meno caldo di quello che mi aspettavo. No, infatti anche di qua è quasi freddo oggi in studio. Forse sarà il fatto che non c'è stato nessuno quasi tutto il giorno. non saprei. C'è anche un'aria purissima. Un'aria purissima, esatto. Sì, è incredibile. E poi comunque 333-180-94-94, se volete lasciarci un messaggio, un WhatsApp o un Telegram o un SMS, avete tipo 6 minuti per farlo. E aspettiamo che... Ma qua? No, continua. Mi sono dimenticato mentre cantava. Prova a muovere un po' il mouse lì a vedere se per caso si è spento tutto quanto. Non so perché non sento più musica di sottofondo. Magari qua non c'è segnale qua di vita. Sì, cioè, il mouse fa una lucina rossa. Ah, bene, bene. Lo schermo niente. Lo schermo è finito, però se vuoi... No, ma ecco, vai, fai così. Mentre... in realtà quello che voi dovete fare mentre io maneggio mancanze di musica di sottofondo è di farmi dei jingle. Avete sei minuti per farmi dei jingle nuovi. Potete farmi un coxo spaziale e fatemi un coxo spaziale. Coxo spaziale. Andava bene? Sì, un po' indeciso, ma mi è piaciuto. Coxo spaziale! Yeah! Non ho sbagliato io a dire yeah a metà perché dopo non so se cancellarlo o aggiungermi, vabbè, va bene lo stesso. E poi mi fate un però io voglio anche quello lì, quel suonarino lì. Fatemi un cos'è che dobbiamo dire? Ospiti musicali, quello puoi dire tu. Voi fate, vai. Ospiti musicali. Fantastico. Con questo, appena arriva qualche ospite musicale serissimo, gli sparo questo e rimarranno così. Sono bellissimi. Infatti, dai, fanne un altro. Cosa ne dice Giffo? Giffo è andata a letto. Okay. No, no, perché a una certa ora. Forse era per i cena. Rivogliamo Ubba. Scrive, questo è un inner joke tra me e lui. Anzi, salutiamo Ubba che ci vuole tanto bene e ci starà ascoltando sicuramente. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Qui ci sono due ascoltatori in media. Abbiamo due, sì, no, di solito ne abbiamo due e mezzo, dipende. Forse Gianluca, che prima era qua, può darci che stia ascoltando. Ha chiesto la frequenza, per cui era interessato. Ah, ecco, vedi. Forse i miei da casa, che pure ho mandato un link, ci ascoltano, forse. Dai. Altri due e un cane li tiriamo su stasera. Beh sì, cioè Nacho mi ascolta sempre. No, anche il mio, allora due. Ecco, vedi, ecco, ho trovato una musica di sottofondo. Questa è una playlist che ho su, non mi ricordo come si chiama, quello tutto arancione, come si chiama? Reverb Nation. No, quella SoundCloud. SoundCloud è una playlist chiamata Coxo Vaffanculo Background List, tipo. Ah. E c'è musica senza voce, perché mi sono capito che quando uno parla, se c'è qualcun altro che gli parla dietro, sembra di essere dalla duo, cioè non è la stessa cosa. Di fare invece se nessuno parla, si sta abbastanza bene a parlarci sopra della musica tipo questa, no? Non so, ve la faccio sentire più forte. Sì, questa la conosci, vuoi volerci cantarci? È una base, la posso cantare. È una base, this is not America. Non so a che punto è. Ah beh, vai un po'. A little piece in you must die. Hai sbagliato. vabbè, ma non è facile. Blossom feels to blue. No, non trovo la parte. Vabbè, possiamo parlare normalmente, sì, non è che dobbiamo cantarci per forza sopra. E, no, e, altrimenti ti sta venendo, io ti vedo impegnatissimo, ti sta venendo in mente un jingle spettacolare per, che ci servirà per sempre, tipo per sempre. Oh. Per sempre. No, no, in realtà ho, no. ho imparato ad avere l'espressione di uno che ho le idee chiare tanti anni fa a scuola, ma non è così. A scuola quando facevi la gavetta con. Che jingle vuoi, dai, dimmi per quale rubrica, perché è importante. Per quale rubrica? Una volta c'era quella della cucina, come si chiamava? Cucina notturna. Sì, sì, anzi, fra l'altro salutiamo Pappalardo che devo andare a trovare in questi giorni. Anch'io vorrei andarlo a trovare, non ci riesco mai, però vedremo. Ce la faremo ad andare a mangiare da Pane e Panelle in via San Vitale, giusto per fare una, così. Una menzione. Una menzione, ma sì, una marchetta, diciamo. Una marchetta. E secondo me potremmo fare un jingle tipo non sappiamo cosa dire. Ah, che ti potrebbe servire nei momenti di imbarazzo, tipo quello tipo questo. Con questo. L'impasse. Vai. Basta. Non lo dice nessuno. No. Beh, pensavo lo dicessi tu. Lo ok, allora lo rifacciamo. Vai. Sappiamo cosa. Ma se lo dico io non va bene. Ah, ok, dobbiamo dire noi. Dovete dirlo voi. Dai, vai, fate, vai, vai, aspetta. Bella che... questa trasmissione. Non è male. Una trasmissione casalinga per. Partiamo per anime dal gentili. Sole e scendiamo cromaticamente. Dal sole. Non sappiamo cosa dire. Fantastico, questo è fantastico. Bene. Dopo prove, anni su anni, ore su ore. No, ma infatti questo ci fa capire come i jingle siano veramente studiati, anni e mesi e mesi di ricerca. Io non credo che nel mondo della reclame, della pubblicità, soprattutto anche della radio istituzionale, quella vera, ci sia molto più pensiero di questo. No, potevi finire in non credo. Nel mondo della... No, ci sono certi jingle che secondo me, l'unica differenza fra il nostro e loro è che loro usano delle librerie di suoni campionati molto professionali, però diciamo che il pensiero più o meno è quello. Ah no, immagino. è tipo questo. La programmazione. Tipo così, campionato. C'era Lyle Mails qui. Sì. Questo è Coxo Spaziale, nel caso non lo sapevate. Senti che professionista. Detto questo, si sente che sono jazzisti, sì, perché nonostante gli strumenti così elettronici anni 80 stanno suonando un brano in si bemolle. Ah, vedi. Uno che fa il rock non ci non lo farebbe mai. Ma che cos'è? Non ce la farebbe mai. No, ce la farebbe, ma non gli viene naturale. Sì, diciamo. È il giro di do che supplisce tutto. No, infatti, detto questo, la trasmissione è finita e siete stati bravi, andate in pace. Posso farti una domanda? Ma se non fossimo venuti noi questa sera, Avrei lasciato il nastrone. Mi sono preparato. Oggi il nastrone pompava bene. Pompava bene. Sì, l'ho ascoltato mentre venivo qua e devo dire. È stato bravo il nastrone. Sì, sì, sì. Altrimenti mettevo una puntata vecchia di Uova, Soda e Noci, che come sapete è al giovedì alle 23. Che è la trasmissione del nostro caro Riccardo che io rubo, perché. Bene, no, ringraziamo soprattutto Giulio Lolli che non ha detto niente ed è stato ben nascosto. Alice Mucchini al come si chiama il background? Background, background ukulele, vocals. No, lei è ukulele. No, lei con l'ukulele ritmico. Ukulele ritmico, esatto. Rhythm ukulele. Che il rhythm ukulele in questo caso era l'ukulelista che sapeva il brani. Esatto. Doveva suonarli. E io, diciamo, ci ho girato un po' intorno. Molto bene. Poi, io dentro me pensavo... non sbagliare niente perché Enrico ti sta venendo. Vabbè, dai. Ed è Enrico. il, e poi naturalmente il grande maestro Riccardo Lolli, detto anche il miracolato di Lagaro, adesso questo lo dirò per sempre, e naturalmente Enrico Farnetti, che non vedremo alla cantina Bentivoglio, o forse anche sì, chi lo sa. Secondo me io vi suggerirei di andare e poi lo scoprirete. È qualcosa di situazionista. Esattamente. Dopodiché naturalmente io ero Stefano W. Pasquini, come al solito noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, e adesso stavo cercando le parole del nostro fantastico direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Sigla che ha scelto Giffo e che salutiamo. Parlami di come puoi volare e di come non senti più il male. Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di favole malate e del tale che le raccontate. Delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Parlami dell'odio e dell'amore e dei segni che ti hanno lasciato. Parlami per sempre.